Ed eccovi ora una serenata e la lirica Notte d'estate di Montico, cantate dalla soprano Nedda Pitana, accompagnata al pianoforte dalla pianista Anna Luci Sanvitale. Cool. come breve la notte, oh bella mia, dentro nel bosco l'uccello già via. L'alba di maggio in viale coi liberoni, il sole con queste brevi composizioni abbiamo voluto, seppure modestamente, commemorare quest'artista che ha tanto onorato il nostro Friuli, perché viva nel ricordo e nell'affetto dei friulani e soprattutto dei suoi allievi, che con tanto amore educò alla vera arte. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 77esima trasmissione dedicata agli emigrati a cura di Ermete Pelizzari. Hanno collaborato Nedda Pittana, Anna Luci Sanvitale, Eligio Ciriani ed Enrico De Angelis Valentini.